fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. Ed eccoci qua, ben ritrovati sulle nostre interconnessioni web di Resto Radio Convento. Mi ripeto, sono Mr. Dave e questo è il nostro sabato del convento di sabato 24 novembre 2018. Ormai però, cosa dice Andrea? Che è quasi domenica mattina. Sono quasi un quarto le tre, quindi... Diciamo che è domenica, dai. Lo capisco anche dai tuoi occhietti stanchi. Ma guarda, io capisco soprattutto che è domenica per chi fa il mio stesso lavoro. Io fortunatamente domani sono di riposo, ma per chi come me lavora nei centri commerciali o comunque supermercati della grande distribuzione, che quindi domani lavora, sono con loro mentalmente. Io domani fortunatamente sono di riposo, quindi posso essere qua, ma se no... Come avete capito, qua insieme a me negli studi di Ristoradio Convento abbiamo Andrea da Montisola. Esatto. Che accompagna delle amiche che sono già state qua, che ci sono venute a trovare, la Francesca, che è il compleanno della Francesca. Tra parentesi, ci sono stato già anch'io qua, eh. Ah sì? Quando sì, però? Sì. No. Un paio d'anni fa. Ah, ok. Questo qua la radio non era ancora presente. C'era però... ancora, 2 anni fa. Infatti abbiamo festeggiato il compleanno della radio lo scorso giugno. Esatto. Perché è stata inaugurata nel giugno del 2017. Stupenda invenzione. Allora Andrea, da Montisola, col traghetto? Col traghetto e poi pullman qua. Col pullman per festeggiare 4 compleanni. 4 compleanni perché... essendo un'occasione grossa arrivare fino qua da Montisola, allora abbiamo detto organizziamo un pullman, 4 compleanni insieme e quindi qua. Abbiamo il compleanno di tua sorella Francesca. Esatto. Simpaticissima, la mia sorella è un fenomeno. È un mito. Guarda, fino a pochi anni fa purtroppo pensavo... so che ha già il ragazzo, purtroppo. Esatto, che anche lui il suo compleanno, perché lei, lei... Damiano. Esatto, Damiano, perché vedi, Damiano... Ma come, quante cose so? Si è informato su tutto. Fantastico. 4 novembre compleanno di Damiano, 9 novembre compleanno di mia sorella e poi altri 2 compleanni che sinceramente però non mi ricordo la le date. Però chi sono? Sono sempre 2 abitanti di Montisola, visto che siamo all'incirca 2000 abitanti. Li conoscete tutti. Esatto, però non mi ricordo sinceramente le date. Ma sì. I nomi? I nomi sono di Lucia e uno Luca. Lucia e Luca. Lucia era qua presente con noi. Perfetto. Insieme a Francesca. E quindi... bello, 2000 abitanti in tutta Montisola. Vi conoscete tutti in pratica. Sì, praticamente tutti. Dopo diciamo che... io vivo sempre tra parentesi, cioè senso, io sono un importato, mia mamma è originaria di Montisola, io ho abitato prima 13 anni a Iseo e poi mi sono trasferito a Montisola andando a abitare nella casa di mio nonno ristrutturata, però Montisola davvero è un mondo a parte, un mondo fantastico, un mondo stupendo. Questo ce l'hanno già raccontato. Esatto. Io ti devo dire che sono già venuto diverse volte a Montisola. E... quindi puoi capire la magia che c'è. Sì. E, l'ultima volta sono stato per i Floating Piers, che vabbè, sì, non ho vissuto, non era la mia Montisola che, esatto. Di cui ero. Chi ha vissuto già Montisola, quel Floating Piers non era Montisola. Sicuramente sì, una bellissima, è stata bella. Sicuramente una bellissima attrazione, una bellissima pubblicità, però non è la Montisola che si vive quotidianamente. Esatto. Io vorrei chiedere ad Andrea qual è il vino che tu consiglieresti ai nostri amici che vengono a trovarti a Montisola. Oddio, c'è un vino autoctono? Io so, oddio, che c'è una vigna. No? Sì, diciamo che sono tutti non strani. Cioè, nel senso, ognuno magari produce il vino per se stesso, magari lo dà a qualche parente, però non è che lo venda a livello commerciale, ecco. Come quindi magari può essere ad esempio l'olio di Montisola o il salame di Montisola. Per il vino non c'è, cioè il salame di Montisola, quindi è una specialità. Sì, il salame è fantastico. Con l'aglio? No, senza aglio, ma il salame di Montisola proprio non lo puoi trovare da nessuna parte. Cioè, ma neanche tipo simile o... Ma quindi oltre alle ringhe, no, alle sardine però d'acqua dolce. Eh beh certo, lago. No, perché qualcuno dice sardina, quindi... Allora, Monte Isola, specialità, sardine essiccate. Sì, che è uno spettacolo. Adesso non mi ricordo quando ero arrivato e che ci sono dei... lungo la strada ci sono questi filari di... come stenditoi dove ci sono attaccate le sardine. Sì, lungo la strada che si stanno essiccando. È una meraviglia perché... È uno spettacolo. Perché vedi queste... sardine qua essiccate come se fossero panni stesi al sole, luccicanti, ma quando le mangi è proprio un piacere, un'esplosione di gioia in bocca. Poi bella, allora, questa locuzione, un'esplosione di gioia in bocca, esatto. Questo mi piace. Poi mi scaturisce la colina. Per me il piatto forte, per tanti può essere magari le sardine con la polenta, cioè proprio classico, cioè, bresciano doc. Sì. Sardine con polenta essiccate. Però devo dire che ultimamente mi è capitato di mangiare quella pasta con le sarde che danno proprio quel tocco in più e con l'olio d'oliva, magari con un goccio di oliva di Montisola. A Montisola ci sono tante cose doc, ma come il salame di Montisola fatto esclusivamente con carne tagliata col coltello, quindi non macinata, tagliata a pezzettoni. Quindi è proprio una particolarità, cioè proprio di Montisola. Più viene affumicato e tutto fatto stagionare. Quindi salame affumicato. Esatto. Quindi proprio è una particolarità, un sapore, un odore. Proprio che lo riconosci subito, anche ad occhi chiusi, se tu lo assaggi, se tu lo annusi. Tu dici questo qua è salame di Montisola. Sì. Più l'olio d'oliva, che comunque ormai è arrivato a aggiunti dei prezzi che dici cazzo, magari uno non intenditore dice ma esiste davvero gente che compra l'olio a questo prezzo? Perché quant'è ad esempio? Allora, tipo quest'anno, allora calcola che il periodo di raccolta delle olive è già finito. Arriva, sta finendo adesso, perché comunque quest'anno è stata un'annata straproduttiva rispetto all'anno scorso che è stata molto bassa. Quest'anno con molto sole e qualche pioggia che comunque ha influito, si parla addirittura di 15, 16, 17 euro al litro. Ah, però. Esatto. Cioè, senso, se uno. Diciamo, è un olio esatto, importante. Esatto, un olio importante. Bello. Molto importante. Quindi, allora, ricapitolando, Andrea. E poi le sardine, cioè, scusami se ti interrompo. Certo, no. Stavo dicendo salame, olio e sardine. Ciao. E dopo magari le reti. E però. Che è Montisola conosciuta per le reti. Dei pescatori ma anche reti sportive producono le reti, poi. Esatto, perché comunque essendo una paesino comunque sul lago abituato a produrre delle reti per pesca, così dopo col passare degli anni si è sviluppata anche la produzione industriale. Quindi e queste industrie sono in Montisola. Allora esiste allora che io sappia esiste un'azienda proprio a Montisola. Poi ne esistono ancora un paio sempre sul lago, però al di fuori sempre sulla terraferma che comunque producono reti. Però ad esempio c'è un'azienda che praticamente produce reti sportive e queste reti va a fornire ad esempio anche le reti di calcio del campionato di Serie A, quindi sì, senso sì. Anche certo, prodotti di qualità importanti comunque. Però, quindi diciamo che bene o male riusciamo a essere sempre sul pezzo e essere una buona bello parte. Ho conosciuto voi montisolani, mi avete colpito veramente in maniera piacevole, soprattutto le ragazze, questo lo meno male. Comunque meno male. Ricapitolando, per una gita a Montisola si lascia la macchina sul Zano. Allora, ci sono più varianti, perché i battelli fanno tutto il giro del lago, però è più conveniente lasciare la macchina o a Sulzano o a Salemarasino. A Sulzano c'è più possibilità di parcheggio, anche se però ovviamente comunque sono tutti a pagamento. Difficile. È quasi impossibile ormai adesso trovarli a gratis, cioè certo. Essere proprio sinceri. Sì. Purtroppo però, è così dappertutto. Esatto, però comunque preferibilmente è meglio lasciare la macchina a Sulzano traghettare, i traghetti ci sono ogni quarto d'ora, quindi proprio servizio e questo impeccabile. Mi dicevano anche durante la notte. Esatto, durante la notte, da mezzanotte fino alle 5 di mattina ci sono ogni 40 minuti, dalle 5 di mattina fino a mezzanotte dopo, ogni invece 15. Ogni 15 minuti circa. Quindi è facile. E i piatti che bisogna tassativamente provare la cucina di Montisola sono le sardine con polenta, esatto, con polenta, oppure la pasta di sarda, esatto, e assaggiare il salame e l'olio, ecco. Magari un pezzo di pane fatto tipo bruschetta con un goccio d'olio, basta perché comincio ad avere la fame. Sì, sì, sì, sì. Benissimo ragazzi, un saluto da Andrea, un saluto a tutti gli amici di Montisola, da Mister è stato Dave, un piacere qua a Ristoradio Convento. Grazie mille. Ciao ragazzi, buon proseguimento. Buon proseguimento.